e dice la rosa alba: «Oh, chi mi svelle? Son mesta come un coltico. Dal ciocco tanto mi germinò di femminelle. Erano come punte tenerine di sparagio, poi fecero lo stocco, buttano anch'esse e s'armano di spine. Vivono dei miei fiori color d'alba, d'alba rosata, e tu non giovi, oruta. Mettono un boccio, una corolla scialba, subito aperta, subito caduta». Le femminelle, dalla raccolta Mirice, 1905, di Giovanni Pascoli. Voce di Annibale Covini Gerolamo, Creative Commons 4.0 International, BY NC ND.